versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori Radio 24, in diretta qui da Milano, 16:36:07 in questo mercoledì 8 di ottobre. Come vi avevo anticipato nei giorni scorsi, oggi parliamo di una proposta. Vi avevo avvisato, facendo un po' il misterioso oggi, chi ci segue, di leggere la stampa con attenzione, la stampa di Torino, perché ci sarebbe stata una proposta, e questa proposta ce l'aspettavamo da un po' di tempo. Perché? Perché l'autore che ci ha lavorato insieme ad altri ricercatori, intervenendo con un editoriale qualche tempo fa sulla stampa, aveva analizzato le diverse impostazioni di quello che sta al centro del dibattito italiano per tentare di accelerare la ripresa e per tentare di recuperare il gap di occupati che abbiamo accumulato in questi anni di crisi. E di fronte alle diverse ipotesi sul campo, prima di tutte quella proposta del governo, passo dopo passo, per citare lo slogan del governo, cioè come si vede da questo concitato dibattito in corso anche oggi, è in corso il voto di fiducia al Senato dopo gli scontri di stamattina sulla legge delega per il Jobs Act. Cosa vuol dire passo dopo passo? Vuol dire una limatina alle tutele al licenziamento, una limatina, vediamo di quanto all'IRAP anche l'anno prossimo dopo il meno 10% quest'anno, una aggiuntina con per chi ne farà richiesta di TFR invece che maturarlo, depositato, averlo in busta paga. Cioè niente di fondamentale, niente di energicamente concentrato come risorse, ma un pochino di interventi di qua e di là. E sappiamo, ce l'ha confermato il Fondo Monetario ieri nell'aggiornamento del World Economic Outlook, che a oggi l'Italia tra i paesi avanzati è quello che ha accumulato il peggior output gap, cioè il peggior divario accumulato tra le potenzialità della nostra economia e come funziona davvero agli attuali bassi regimi. Quindi nella realtà noi dobbiamo sapere che o mettiamo in atto dei cambiamenti abbastanza sostanziali, oppure nel breve periodo ci scostiamo di qualche frazione di punto da quella condizione, mentre invece, come ovvio, la perdita di reddito, occupato, prodotto e margine per le imprese è tale che forse dovrebbe indurre, diceva il nostro ospite di oggi nel suo editoriale qualche tempo fa, portarci a un'altra riflessione. È possibile un'alternativa con delle misure più energiche? E naturalmente sapendo che non possono essere con deficit accumulati enormi aggiuntivi, viste le nostre condizioni, per esempio come propone Lesina e Giavazzi, dice fate un taglio di 2 punti di PIL, cioè di 30 miliardi di euro di tagli alle tasse in deficit, e proponetelo all'Europa, che naturalmente poi ci farebbe una pernacchia. Ma detto tutto questo, il nostro autore di oggi aveva, per così dire, fatto venire l'acquolina in bocca su una proposta che oggi è spiegata, la trovate sulla stampa a pagina 2 e 3, e ho pensato bene quindi di chiedergli di venire ai nostri microfoni, perché è una proposta secondo me molto buona. Ecco, cioè io mi piacerebbe che qualcuno la ascoltasse anche in alto, per così dire, e prima di scartarla ci spiegasse perché e in che cosa è meglio la strada che sembra imboccata oggi. E con noi per parlarne, appunto, l'autore che l'ha elaborata insieme al ricercatore della Fondazione David Hume, Luca Ricolfi, che insegna all'Università di Torino ed è editorialista della Stampa. Buon pomeriggio e grazie, professor Ricolfi. Buongiorno Giannino. Allora, spiega in sintesi in che cosa consiste la proposta a chi non ha letto la stampa? Ma io la spiegherei in questo modo. Innanzitutto parto dalla finanziaria, o meglio dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Lì si prevede che se non si fa nulla l'occupazione non cresce l'anno prossimo. Ma se si fa qualcosa, cioè se il governo fa tutto quello che dice di voler fare, se la congiuntura internazionale evolve abbastanza bene, l'occupazione aumenterà di 20.000 posti, che è una quantità irrisoria naturalmente. E a fine periodo, cioè nel 2018, a fine legislatura, il governo programma un calo del tasso di disoccupazione di circa 1 punto. Cioè in sostanza il nostro governo dice: se va bene si formeranno 200-300 mila posti di lavoro, di cui 50-60 mila dovuti alla nostra azione di governo, alla nostra spinta, e avremo sempre 3 milioni di disoccupati. Allora, io di fronte a questa cosa penso che non la si può accettare. Ripetiamolo, questo è nelle cifre ufficiali della nota di aggiornamento del DEF, cioè non è che ce lo stiamo inventando noi, non sono i gufi, sono le cifre ufficiali del governo. Io non credevo ai miei occhi quando ho letto questa cosa, anche se non mi stupisce affatto, perché anch'io sono convinto che sulla strada su cui il governo si è messo non otterrà dei grandi risultati. Quella lì è, che lei ha descritto molto bene, è una strada che andava bene 20 anni fa, cioè se 20 anni fa avessimo cominciato passin passetto a fare le cose che si stanno facendo adesso, eravamo in tempo. Adesso secondo me non siamo più in tempo. Allora, in cosa consiste la mia proposta? Beh, in un certo senso è una sintesi fra quello che propongono Giavazzi, Alesina e Tabellini e quello che propone Renzi. In che senso? Beh, è una proposta che è prudente come quella di Renzi, nel senso che un passo dopo passo non ci sono sforamenti mostruosi del deficit pubblico, insomma è una proposta saggia che anche Padoan potrebbe accettare. Cioè, diciamo non di quelle che gli salta la mosca al naso alla Merkel per definizione. Esatto, è una proposta accettabile per l'Europa, ma somiglia paradossalmente a quelle di Giavazzi, Alesina e Tabellini, perché è una proposta shock, quindi diciamo una proposta shock ma che rispetta il principio del deficit, cioè di non fare troppo deficit aggiuntivo. E come funziona? Allora la proposta, cerco di spiegarla nel modo più semplice perché siamo alla radio e non ho una lavagna, la proposta in sostanza dice questo: se noi dovessimo incentivare tutte le nuove assunzioni costerebbe troppo. Allora cosa facciamo? Noi cominciamo a fare un calcolo di quante sono approssimativamente in Italia le assunzioni nelle imprese che aumentano l'occupazione, quindi imprese dinamiche, sane, che hanno un aumento della domanda, probabilmente perché esportano in parte, e che sono già intenzionate per conto loro ad aumentare l'occupazione. Allora concentriamo le risorse su queste imprese e le concentriamo però in modo pesante. Anziché dire vi facciamo uno sconticino, vi togliamo un po' di IRAP, vi togliamo un po' di cuneo fiscale, gli diciamo noi il cuneo fiscale ve lo abbattiamo del 75%, cioè oggi il cuneo fiscale funziona così, la busta paga è 100, l'impresa paga un altro 100, l'impresa e il lavoratore pagano un altro 100 allo Stato. La quindi proposta... al lavoratore resta in tasca la metà del costo lordo aziendale. Esatto. Allora la mia proposta è che al lavoratore resti l'80%. Vista dal lato dell'impresa significa che per mettere 100 in busta paga al lavoratore io pago 125. E non più 200 come cosa complessiva. E non più 200, 125, quindi è quasi dimezzare il costo del lavoro. A questo punto si direbbe, ho capito, è il professor Ricolfi, però si dimentica che per lo Stato significa un mucchio di soldi in meno. Esatto, questa è l'obiezione che mi sono fatto anch'io, infatti questa proposta non la feci 6 mesi fa, quando lanciai l'idea del maxi job, ma la faccio adesso, più convintamente. Perché? Perché io quando feci per la prima volta questa proposta non sapevo quale sarebbe stata la reazione delle imprese, perché questo è un problema empirico. Alcuni dicono se tu riduci anche il costo del lavoro non cambia niente, semplicemente le imprese risparmiano, ma i posti di lavoro che vengono creati sono sempre gli stessi. In particolare questa è l'obiezione di un ex ministro del lavoro che si chiama Cesare Damiano, che quando io feci questo genere di proposta 6 mesi fa disse: insomma, a incentivare le imprese non serve a un tubo, perché sono tutti i posti di lavoro che sarebbero nati comunque. Allora io ho detto, beh, può darsi, però andiamolo a vedere. Abbiamo fatto 2 inchieste, una piccola e una grande in Piemonte, una sulle liste dell'Unione Industriale, l'altra su quelle di Union Camere, la prima con 50 imprese intervistate, l'altra con più di 1000 imprese intervistate, quindi parliamo soprattutto di questa seconda, e siamo andati a chiedere alle imprese che non riducevano l'occupazione, ma avevano intenzione o di aumentarla o di tenerla ferma, quante assunzioni in più avrebbero fatto con la mia proposta, cioè con il Job Italia o Maxi Job, come lo chiamavo allora. E perché abbiamo fatto questa domanda? Perché si può calcolare dal punto di vista teorico quanto dovrebbe essere il moltiplicatore o la reattività delle imprese perché lo Stato non ci perda. E mi spiego in modo concreto. Se i posti posti di lavoro che nascerebbero spontaneamente sono 100 e con la mia proposta diventano 120, lo Stato ci perde dei soldi. Certo. Se però diventano 140, lo Stato non ci perde una lira, poi spiego perché. Se diventano 180 o 200 o 300, lo Stato addirittura incassa più soldi di prima. Ma qual è il meccanismo attraverso cui lo Stato incassa di più di prima? È molto semplice, basta fare questo ragionamento. Quando io creo un nuovo posto di lavoro, questo posto di lavoro non dà solo un salario al lavoratore, ma produce anche un reddito, per esempio, per l'impresa. Produce dei beni che vengono venduti sul mercato, cioè esiste un valore aggiunto associato al posto di lavoro che io creo. Mediamente in Italia il valore aggiunto viaggia sui 65-70 mila euro ad addetto. Che cosa succede di questo valore aggiunto? Una parte, l'abbiamo detto, va in tasca al lavoratore, una parte va allo Stato in contributi sociali, una parte va all'imprenditore, ma ecco il punto importante, una parte molto grande va allo Stato sotto forma di altre tasse, sì. Perché dentro il valore aggiunto c'è l'IRAP, c'è l'IRES, c'è l'IVA. C'è l'IVA. E poi ci sono naturalmente, c'è naturalmente il fatto che se ci sono, supponiamo, 300.000 posti di lavoro in più, questi lavoratori pagheranno anche altre tasse, ci sono anche altre entrate dello Stato, l'IMU per esempio. Cioè creare dei posti di lavoro significa certo dare dei soldi all'INPS se i contributi vengono interamente pagati, ma significa anche dare dei soldi allo Stato sotto forma di tasse e altre imprese e altre entrate. La cosa interessante è che se si va a studiare per bene la contabilità nazionale, io lo faccio con uno schema un po' particolare che ho chiamato contabilità nazionale liberale, si può stimare grosso modo per un euro di contributi sociali quanto c'è di altre tasse. Ebbene, la risposta è che c'è almeno 2 o 3 euro di altre tasse, diciamo una quantità compresa fra 2 e 3. Quindi se io creo dei posti di lavoro, su questi posti di lavoro faccio pagare pochissimi contributi sociali, è vero che lo Stato, o meglio l'INPS e l'INAIL, incassano meno soldi sotto forma di contributi sociali, molti di meno, ma è vero che lo Stato incassa molti più soldi di quelli che hanno perso l'INPS e l'INAIL sotto forma di altre tasse, ne incassa il doppio o il triplo. Allora se io riesco a formare abbastanza nuovi posti di lavoro, io posso fare un'operazione grandiosa, non solo non fare perdere soldi allo Stato, ma dire allo Stato: caro Stato, io ho tolto i contributi all'INPS, ma dato che tu stai guadagnando un sacco di soldi in più, perché io ho creato dei nuovi posti di lavoro, tu quei soldi in più che lì che incassi, li vai a girare all'INPS perché dia una copertura assicurativa e previdenziale ai lavoratori a cui io ho per i quali ho creato dei posti di lavoro, ma ai cui datori di lavoro non ho chiesto di pagare tutti i contributi sociali che pagavi prima. Non allora, posso... ora la interrompo perché dobbiamo andare sui 60 secondi di informazione stradale. Io spero che a chi è a casa, poi torniamo naturalmente in diretta, sia chiaro. La proposta è: concentriamo per i nuovi assunti delle imprese, concentriamo lì una proposta secca. Invece che far entrare nelle tasche dei nuovi assunti il 50% del salario lordo, del costo complessivo oggi, tra contributi che deve pagare l'impresa e lavoratore, gliene diamo l'80%, quindi gli facciamo guadagnare di più, quindi questo significa sostegno alla domanda, e l'impresa invece che a quel punto avere il doppio rispetto al netto in tasca al lavoratore, ce la mette solo un 125 e non 200. Il meno che entra in contributi allo Stato, visto che questa offerta, no, che fa lo Stato per le imprese che vogliono assumere nuove porterebbe a più assunti rispetto a quello che assumerebbero alle condizioni attuali, significa fare una scommessa su quanti più ce ne sono, perché più ce ne sono più lo Stato ci guadagna con quello che prende di più sulle altre imposte, quindi è in grado di coprire, finanziare o addirittura fare di più dei contributi meno che entrano. Ovvio che questa è un'impostazione completamente diversa rispetto a quella di cui sentite parlare. È come se fosse la vecchia proposta liberista americana, quella che diceva abbassiamo le aliquote medie, mediane e marginali, perché così si amplia la platea fiscale, lo Stato prende più soldi con aliquote più basse. Ma questa invece è applicata non alle imposte sui redditi dei contribuenti, ma è applicata sul cuneo fiscale, versante impresa, versante lavoro, sull'occupazione aggiuntiva, per avere a quel punto X volte di più dei pochissimi occupati, che nei conti del governo vi si dice che ci saranno con quello che il governo vuole fare. Ecco, questa è la proposta. A me sembra una proposta che una classe dirigente seria dovrebbero esaminare con grande attenzione invece di scartarla. Trovate oggi sulla Stampa, pagina 2-3, Luca Ricolfi, la Fondazione David Hume. Concentriamo per avere più occupati nel breve e medio periodo rispetto a quelli che propone lo stesso governo, con quello di cui sta discutendo e proponendo, tra enormi spaccature anche politiche e sociali, perché io credo che con la delega, che è una delega in bianco votata oggi al Senato alla fiducia tra poco, in realtà noi avremo 5-6 mesi fino ai decreti delegati di scontro sociale assoluto tra CGIL, FIOM, un pezzo della sinistra, e senza avere un testo in mano oltretutto, e le imprese che staranno a quel punto a guardare a braccia conserte quali sono le norme nuove in base a cui assumere o meno, eh? Non è proprio una bella cosa, secondo me. Ecco, però detto questo, come si fa a capire se davvero questa proposta aggiuntiva, lei lo ha stimato da quelle ricerche, ma quale sarebbe la percentuale di posti aggiuntivi che si creerebbero? Allora, io ho fatto con grandissima difficoltà una stima di quali sono i posti di lavoro creati dalle imprese che aumentano l'occupazione, cioè se non si fa nulla quanti posti di lavoro si creano in queste situazioni di imprese dinamiche. Allora, la sorpresa è questa, che in Italia ci sono 10 milioni di assunzioni più o meno ogni anno, perché c'è un enorme tourbillon di contratti che si chiudono, si aprono, si chiudono, si aprono, e naturalmente ci sono le assunzioni dovute a chi va in pensione. A fronte di questi 10 milioni di assunzioni, per le quali ovviamente non ci sono risorse sufficienti, ci sono circa 300-400 mila posti di lavoro che vengono create da imprese che crescono, cioè che aumentano la loro occupazione, e sto trascurando le imprese nuove, sto solo parlando di imprese esistenti. Questa è una stima che abbiamo fatto con enorme difficoltà, è 9 mesi che lavoriamo su questa roba, perché non ci sono dei dati precisi, affidabili e completi su questo, però insomma alla fine siamo arrivati a questa idea, che sono circa 300-400 mila i posti di lavoro in imprese che aumentano l'occupazione, cioè nelle imprese che io voglio incentivare con questa proposta. Dopodiché abbiamo stimato il cosiddetto moltiplicatore, cioè questi 300-400 mila, e facciamo finta che siano solo 300 mila per prudenza, di quanto verrebbero moltiplicati se ci fosse questo nuovo tipo di contratto, il Job Italia. La nostra prima stima, fatta con l'Unione Industriale di Torino, su dati Unione Industriale di Torino, era che i posti passerebbero da 100 a 251, quindi diciamo da 100 a 250. Se i posti nuovi sono 300, vuol dire passare da 300 a 750, quindi una cosa enorme, vuol dire che tu crei quasi 500.000 di posti di lavoro in un anno, tra l'altro, a 12 mesi, senza fare niente, semplicemente permettendo di pagare meno contributi alle imprese. Poi abbiamo fatto una ricerca più grande e ci è venuto lo stesso valore, cioè addirittura un po' più alto, 264, cioè i posti passano da 100 a 264. Quindi insomma moltiplicatore superiore a 2. Posso chiedere al professor? Un momento, Giannino, nelle nostre stime noi abbiamo detto cala trinchetto. Cioè siamo prudenti. Abbiamo lavorato con un moltiplicatore 2, abbiamo ipotizzato che il moltiplicatore sia solo 2, cioè parecchio di meno. Di allora guardi, professore Colfi, io nei prossimi giorni inviterò altri interlocutori a sapere come la pensano e magari poi la richiamiamo più avanti animando il dibattito, perché secondo me non deve finire qui la cosa. Intanto per oggi il tempo è finito, continuate a guardare 24, appuntamento come domani.